Che fai? Sto prenotando un treno per Roma. Perché? Ho voglia di mangiare del buon abbacchio, cucinato secondo la ricetta tradizionale. Ma non serve andare a Roma per mangiare dell'abbacchio, basta andare alla Romana, in via Saffi 13 a Medicina. Lì potremo trovare tutti i piatti della tradizione romana, da innaffiare col vino dei Castelli, carbonara, cacio e pepe, gricia, amatriciana. E poi ancora, coda alla vaccinara, fagioli con le codiche e pure l'abbacchio. Su www.alaromana.it trovi tutto il menù. Alla Romana, il ristorante romano che ti fa risparmiare 400 km. E un sacco di sordi. Quanto sei bella Roma, quando è sera. Pensi che il mondo si sia ristretto e non riesci più a vederlo bene? Forse hai bisogno di Ottica Mondovisione, i professionisti della vista. Oggi con ancora più convenienza. Vieni a vedere le nostre incredibili promozioni. Occhiale progressivo completo di lenti, 150 euro. Office con lenti antigraffio, antiriflesso, luci blu, 200 euro. Già hai visto bene, sono promozioni incredibili. Ottica Mondovisione, via Ferrarese 20C a Bologna, 051 63 13 730. 37 o otticamondovisione.it. Amore, amore, dove sei? Sono nella spa. Da quando abbiamo ristrutturato il bagno con Gruppo Edile Emilia, lei sta sempre in bagno e lo chiama persino spa. Ma come darle torto? Il nostro bagno adesso è così bello e confortevole. Hai ragione, amore. E poi hanno pensato a tutto loro, dal progetto alla posa in opera. È tutto di alta qualità. Gruppo Edile Emilia, via Stalingrado 24C a Bologna. GruppoEdileEmilia.it. Amore, andiamo nella spa. Avrei giusto bisogno di un massaggio. Da oltre 30 anni a Bologna c'è un centro che offre ascolto, supporto e protezione alle donne che subiscono violenza. È la casa delle donne per non subire violenza. Sostieni questo lavoro prezioso. Dona il tuo 5 per 1000 scrivendo il codice 92023590372 nella tua dichiarazione dei redditi. Per saperne di più vai su www.casadonne.it. La tua azienda si è persa nel labirinto della documentazione per la sicurezza sul lavoro? Falla facile e scegli Alconsap. Con il nuovo servizio Consap Cloud hai sempre tutto a portata di mano, online, archivio, checklist, e non dovrai mai più pensare alle tue scadenze. Falla facile con Alconsap in via della Salute 14-2 a Bologna o su alconsap.it. Professionisti e tecnologia per risparmiare tempo ed energia. Quando il Vinyl Touch incontra il Flavor Touch, il mix è semplicemente perfetto. Comini Express, in via Fioravanti 68, tutti i mercoledì, mette due giradischi a disposizione di chiunque vuol far suonare i propri vinili. Il tutto mixato con il gusto e i sapori della nostra cucina. A fare gli onori di casa Willy Groove, da Radio Città Fujiko. Fondo Comini, via Fioravanti 68, ingresso gratuito. 20, 21, 22 giugno ritorna il Beer Fest di Anzola. Saranno presenti i mastri birrai più conosciuti del territorio. Statale 9, Birrificio Emiliano, Malcantone e la New Entry Oste. Il tutto reso ancora più speciale dalla gastronomia locale. Non basta? Ogni serata sarà ricca di musica e DJ set, ma anche fotografie, collage, pittura, illustrazione, street art e graffiti. Beer Fest. 20, 21, 22 giugno. Anzola dell'Emilia, Bologna. Iniziamo quasi puntuali, 8:04 minuti. Permettetemi con una malcelata commozione di ringraziare i giovani che hanno portato al Breakfast Club un valore indispensabile per la programmazione. Quindi per il martedì Pietro Rossi, per il mercoledì Lorenzo Pauri, già qui in diretta per noi, per il giovedì con Viola Balugani per l'arte e il teatro ora in forza per il Breakfast Club, Anna Cesari, impegnata in diverse conferenze conferenze stampa. Oggi voltiamo pagina. Lorenzo, per questo trittico di incontri, ha portato grande qualità letteraria, tanto entusiasmo e una voce che è valore aggiunto, come dico e ripeto, per il Breakfast Club. Buongiorno e grazie Lorenzo. Buongiorno a tutti e tutti e grazie mille dei complimenti, William. Torniamo quindi a parlare di libri dopo aver portato anche i consueti ringraziamenti. Passiamo alle pagine, nel voltiamo pagina di oggi, che è il mercoledì 19 giugno, un libro portato da Lollo con una copertina che subito ha attirato non solo la mia ma anche l'attenzione di Lorenzo. Fatti Edizioni, copertina stilizzata, molto bella, disegnata, particolare, però tu stesso fuori onda hai detto: sì, mi è piaciuto, ma è un libro molto intenso. Sì, molto molto. Il libro si intitola La grande fortuna, la scrittrice Olivia Manning, deceduta nel 1980, e il libro parla della guerra da un punto di vista differente, cioè quello dei salotti. Ed è un racconto che un romanzo che mi ha entusiasmato per il fatto che non avevo mai letto della guerra da questo punto di vista. La storia parla di una coppia, i Pringle, che si conoscono quando lui torna in Inghilterra per poi ripartire per la Romania, ma il libro è ambientato in Romania. Si coglie solo che il loro amore è stato veloce, si sono innamorati precocemente, si sono sposati altrettanto precocemente. E quindi si coglie che sono una coppia inesperta, ancora non si conoscono abbastanza. Lei è molto diversa da lui e iniziano a notarsi delle differenze. E l'autrice qui è molto brava perché fa innanzitutto delle descrizioni molto intense, e a me queste descrizioni mi hanno colpito perché non sono descrizioni statiche, ma sono descrizioni che seguono il passo dei personaggi, intervallate tra un dialogo e un altro, e seguono il percorso, il cammino che stanno svolgendo i personaggi in quella situazione, in quella conversazione, in quella passeggiata. E quindi sono una coppia diversa. Lei è un'attenta, una curiosa, le piacciono le persone, le guarda. Un'osservatrice. Lui invece è un amante delle idee, è uno che gli piace stare in compagnia, sorseggiare del brandy, del whisky che andava di moda all'epoca. Meno concreto. Meno concreto, esatto. E meno, esatto, pratico per la vita di tutti i giorni. Di fatto lui è un professore. Probabilmente è tratto da una storia vera, cioè quella dell'autrice, perché anche lei ha vissuto quegli anni della guerra in Romania, anche se il marito non era un professore come il personaggio, ma era un operaio. E poi c'è un'altra figura, un terzo personaggio. Infatti i capitoli sono intervallati da momenti in cui si parla della coppia, e il capitolo successivo invece si parla di questo personaggio, questo principe stravolto dalla guerra, entra in Romania e cambia tutto. E mi ha colpito particolarmente il fatto che mi ha ricordato un po' questi giorni, questi momenti. Abbiamo la guerra vicino, loro sentono la notizia dell'invasione polacca, iniziano questi commenti: chi è tranquillo, chi vive alla leggera, chi è spaventato, e chi invece è terrorizzato, dice oddio, oddio, chi addirittura dice: ma sì, ma fidiamoci di Hitler, cosa volete che faccia? Ha detto che si fermerà, quindi sì, ascoltiamolo. E in questo melting pot di personaggi provenienti da qualsiasi stato che si incontrano a Bucarest, in Romania, la Parigi dell'Est, sì, succedono queste storie che si intrecciano. Hai parlato di un terzo personaggio, scusa, sì, se sì, vado a intuizione un po'. Sarà un ménage à trois oppure un sé? È un personaggio a sé che mi ha divertito particolarmente, perché è uno di quei personaggi che vive per ridere, per sorridere, ma non per divertirsi in senso ballare, festeggiare, ma proprio per la battuta, per la convialità. Sei riconosciuto? Mi sono un po' riconosciuto in quel personaggio. Giusto. Tant'è che mi ha divertito parecchio questa cosa che fa. Decide di mettersi una scarpa di un colore diverso. Cosa che puoi fare benissimo tu. Sì, sì. E per ricevere la domanda: guardi signore, ha due scarpe diverse. E poi commentare: ah sì caro ragazzo, ne un paio uguale a casa. Sì, trovo tanto di alcune tue risposte in queste affermazioni, per cui insomma ribadiamo che è Fazi editore. Olivia Manning, che conosco come autrice, grande talento, mi sa che quel libro lo vinco io. No, sto scherzando, il titolo intanto lo precisiamo per quanto riguarda questo inizio di presentazione prima dello stacco musicale. Il titolo del il lavoro, il titolo è La grande fortuna. Primo brano, hai detto tre personaggi, tre brani, e così sarà, Lorenzo. Sì. Il primo brano, allora ci puoi presentare questa selezione? Il primo brano è di Levante, si intitola Sbadiglio e mi ha ricordato Ariet, la sposa. Ci sono stati bei momenti. La parentesi, questa sera dalle ore 18 sarò con Mini Express in via Piorvanti 68, la versione estiva del binario, per una console aperta. Quindi DJ, vi aspetto, indipendentemente dal genere, portate vinile e vi sarà una playlist proposta da voi. Da questa sera, binario 69, arriva con Mini Express la parte estiva del binario, per cui avremo modo di portare la musica, la vostra musica. Vi aspetto. Parliamo di libri, oggi giornata di musica e libri al Breakfast Club. La canzone di Levante dedicata al personaggio femminile nel lavoro portato da Lorenzo, il titolo è Sbadiglio. È una persona un po' annoiata, visto il titolo, oppure no, non è per quello, non so. E è un po' annoiata dal fatto che scopre che il suo marito ha così tante amicizie a Bucarest e lei è una persona un po' più solitaria, un po' più discreta. Certo, capisco, si sente un pochettino a volte anche messa da parte, se vogliamo. Un po' sì. Anche perché poi ci sono queste figure femminili che girano intorno a suo marito. È una punta di gelosia, e non quindi può mancare. Sì, certo, sì, esatto. Lui professore, talentuoso, poco concreto ma fantasioso, classico, un colpo di fulmine, anzi un coup de foudre, visto che Bucarest è la Parigi francese, mi sono permesso questa licenza francofona in un contesto storico inquietante, in quanto si inizia ad allargare la territorialità del Reich e tutto ciò ha creato veramente terrore. Alcuni minimizzano l'aspetto anche dai contesti e cronache storiche, alcuni tra i diplomatici concedevano tutto ciò, lasciando completamente fuori poi la Russia, o meglio l'Unione Sovietica, che continuava ad avvisare che, beh, questo non c'è da fidarsi del baffino, assolutamente. Beh, l'importante è che stia fuori l'Unione Sovietica, l'importante è che stia fuori l'Unione Sovietica, poi lo gestiamo la questione del Reich, l'importante è che finché non sono arrivati a un compromesso per non avere ulteriori danni di non belligeranza, come ben sapete, con il patto Molotov-Ribbentrop. Ma non stiamo parlando di storia, anche se di storia, perché è una data la protagonista del quiz proposto da Lorenzo per avere il lavoro appena presentato, ma continueremo a parlarne nel contesto del voltiamo pagina al 333-180-9494. Detto questo, intanto io conosco l'autrice, molto molto scorrevole ma non pop, come hai detto giustamente, è una capacità narrativa, penso anche in questo lavoro che leggerò, che è capace di intrattenere ma nello stesso tempo di portare altissima qualità letteraria. I suoi lavori hanno questo filo conduttore nelle parole di Olivia Manning e nelle storie che vanno contestualizzate e riportate in maniera introspettiva, riconoscendosi in alcuni personaggi. Ha questa capacità dialogica l'autrice, che apprezzo tantissimo. Non so se questa recensione nella recensione può essere parallela ad aspetti anche che hai trovato nel lavoro che hai portato. Sì, mi sono ritrovato in questa sua descrizione, anche perché intervalla commenti ironici, questa simpatia all'inglese, a letture antropologiche, a descrizioni anche dettagliate, mischiate a metafore per rendere ancora di più l'idea del luogo, del movimento. Lei ha una grande ironia anche nello scrivere. Sì, assolutamente. Ha questa sottesa ironia che secondo me dà un'ulteriore capacità di intrattenere il lettore. È importante, ma non è un librone, ecco, diciamo così. Perché hai aggiunto che ti ha a volte così portato, non voglio dire un appesantire, ma ti ha così dato un momento così di respiro un po' affaticato, ecco? Perché a volte entri in questo stato di lettura in cui queste descrizioni, alternandosi a questi dialoghi, in questo ritmo continuo, prendono quasi una nota unica che dopo un po' ti aliena, mi verrebbe da dire, ti distoglie dal libro. Hai bisogno di staccare e dire ok, cos'è successo, perché sennò confondi tutto, fare un passo indietro. Esatto. Momento di fare un passo indietro. Sarà perché questo tipo di lettura a me coinvolge molto, quello di tornare un attimo indietro per fare ordine. Sarà che noi persone alte non siamo esattamente sveglissime, però ciò non toglie che invece potrebbe essere qualcosa che porta concentrazione ulteriore alla lettura. Allora, questa coppia, non voglio che venga svelato nulla, però sta insieme? Sta insieme, sono sposati, okay. E ho trovato, sottolineato due righe del libro in cui lei, tramite un dialogo, descrive benissimo le loro differenze. Se posso, certo, poi lo leggerei. Alla musica, dai, mi fai un cenno quando hai terminato e mandiamo la musica. Questo dialogo parte da lei che fa un commento sul capo di lui. Lui si chiama Guy, lei si chiama Harriet, come ho già detto, e lui risponde: fa la sua vita, come tutti noi, perché ti interessa tanto saperlo? Lei risponde: naturalmente perché sono curiosa. Lui risponde: perché dovrebbe interessarci la vita privata degli altri? Dovremmo accontentarci di quello che vogliono farci sapere. Beh, a me interessa, a te interessano le idee, a me le persone. Se ti interessano le persone, forse non ti piacerebbero tanto. Last couple of days have been kind. That's it, folks. The end of the Wachito story. Our protagonist found peace. Io non conoscevo questo pop groove. Boy Pablo, ci puoi dire qualcosa di più? Intanto grazie anche per la selezione musicale. È dedicata al protagonista maschile, immagino. Sì, perché la canzone parla di lui che le dice: dai, vieni a ballare, e non importa se vuoi andare a casa, perché c'è una scena in cui lei vuole andare a casa dopo una lunga conversazione tra amici e tutto. Lei dice: basta, è tardi, no? E lui le risponde: ma c'è tempo per andare a dormire. Allora la canzone dice: beh, sì, lui vieni a ballare, compagnia, eh. Sì, sì. Contesto storico, momento di grande difficoltà fino a questa estensione del Reich, convinti i grandi governi occidentali che fosse il Reich stesso Hitler il cane da guardia per badare, avevano più paura dell'Unione Sovietica e quindi lo tenevano come cane da guardia perché potesse essere motivo di controllo a questo espandersi del socialismo reale. Così non è stato, tanto più che appunto le conseguenze che abbiamo visto con invasioni di diverse città nella parte occidentale dell'Europa. Abbiamo parlato di Bucarest in quanto la Parigi dell'Europa orientale ed è il momento del quiz. A proposito di Parigi, a te la parola. È il momento del quiz. Innanzitutto avviso i gentili ascoltatori che questo è il primo libro di una trilogia, la trilogia balcanica, e il quiz è, siccome parlavamo della Parigi dell'Est, giorno e anno in cui è stata invasa Parigi dai nazisti. In che anno è stata invasa Parigi dai nazisti? La data precisa, quindi giorno, mese, anno dell'invasione nazista ai danni di Parigi. Neffa, quando sorridi. Ognuno ha un peso da portare con sé. Più succede che poi finisce che non ce la fai. Sospesi in volo su una grande giostra al suono della musica. Giriamo io e te, giriamo io e te. La stessa vita così amara qualche istante fa. sorridi, è un attimo, e così i pensieri più tristi svaniscono. A che serve farsi la vita difficile, se alla fine è già complicata, così com'è. Ognuno ha un po' di amore dentro di sé, non dirmi che tu non ce l'hai, ma più ne chiedi e più non serve, perché dipende da quanto ne dai. E puoi lasciarti andare fino in fondo alla tua solitudine, se è quello che vuoi, se è quello che vuoi, ma finché al mondo c'è qualcuno che ci tiene a te, ricorda se puoi, quello è il bene più grande che hai. Non lo sai che quando sorridi è un attimo. E infatti questa è perfetta per il terzo personaggio, sì. Una colonna sonora, sì, azzeccatissima, sì. Alle 8:26 minuti, 14 giugno 1940, risposta esatta, Lorenzo? Giustissimo. Quindi il libro è di Paola T. Precisiamo anche l'iniziale del cognome, perché abbiamo diverse Paole, le beate Paole all'ascolto del Breakfast Club al Voltiamo Pagina. Il libro potrà essere ritirato presso la libreria Ubic di Via Irnerio 27, con la quale collaboriamo. Quindi ricordo, libreria Ubic, e non solo per i libri del Breakfast Club al Voltiamo Pagina. Ringrazio fra l'altro le ragazze per la collaborazione con Radio Città da Fujiko, Ubic, libreria Via Irnerio 27, ovviamente a Bologna. Complimenti, Paola! Se alla fine è già complicata, così com'è. Non lo sai che quando sorridi è un attimo, e così i pensieri. Arriva una velina di redazione tramite il messaggio che porta Gianluca, che ho immediatamente girato alla redazione giornalistica, al nostro direttore. Willy, purtroppo c'è aria di tensione al parco Don Bosco, celere e blindati schierati. Grazie intanto, sappi che è già stata avvisata la redazione giornalistica per quanto riguarda tutto ciò. Avremo modo di portare approfondimento. Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Ho portato un'altra sigla, quella dei Magazine, così per alternare anche tra le rubriche. Però questo è il Voltiamo Pagina, che alle 8:28 minuti arriva allo stacco pubblicitario. Soddisfatto, Lorenzo, allora di queste tre puntate? Sì. Io sì, sono tanto. Sono stato molto contento. Io sì, tanto. Grazie. E non finisce qui, ovviamente avremo anche la seconda parte, un'altra pubblicazione per voi dopo quiz al 333-180-9494. Protagonisti. Ah, salutiamo anche Silvia Albertazzi e Stefano Calanchi, alla nostra prof, ho scelto probabilmente oggi per non ricevere critiche alle mie imprecise informazioni che probabilmente darò, perché il libro in questione vede già dal titolo Il mio sottomarino giallo, quindi parliamo dei Beatles, una sua grandissima passione, per cui devo essere il più preciso possibile. A tra poco sui 103.1 Voltiamo Pagina. And I stop yawning, forming in my brain a new plan for you and yours can get or start rolling upstream. It's a must, I trust all of us can lift the cup team and see the new meaning of the word. Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it. Potremmo parlarvi dei materiali ricercati e durevoli, della linea e della forma dei nostri arredamenti. Ma preferiamo raccontarvi come ci piace rendere la vostra casa unica e disegnata intorno a voi. Bertocchi Arredamenti, una grande passione per l'arredo dal 1964. Personalizziamo ogni vostro ambiente con falegnameria interna per adattare ogni arredo ai vostri spazi, con assistenza post vendita sempre presente e con i migliori brand nazionali come Stosa e Moretti Compact. Bertocchi Arredamenti è in via dell'Intagliatore 15 a Bologna e su bertocchiarredamenti.com. Bertocchi, ogni mobile, una storia. L'università non è più un problema. Sottotesi.it. Da oltre 10 anni, gli esperti del tutoraggio universitario. Scopri il nostro coaching. Ti affiancheremo un esperto del tuo ambito per aiutarti a scrivere una tesi di laurea perfetta. Siamo leader nel settore formativo, per tutte le facoltà. Sottotesi.it. 2 sedi a Bologna e Torino. Ma grazie al nostro network abbiamo una diffusione capillare in tutta Italia, con centinaia di collaboratori che possono aiutare anche te. Visita sottotesi.it, chiama al 333 722 4558 o passa a trovarci a Bologna in via Mascarella 10A. In Italia 3 persone al giorno muoiono sul lavoro. Precariato, salari bassi, appalti, subappalti e licenziamenti troppo facili. Tutto per ottenere il massimo profitto. È ora di dire basta. Partecipa alla raccolta firme della CGIL per i referendum popolari contro le leggi sbagliate che penalizzano chi lavora, affinché il lavoro sia sicuro, dignitoso, stabile, tutelato. Informati presso le Camere del Lavoro territoriali, i delegati CGIL e firma online su cgl.it/referendum. Per il lavoro ci metto la firma. E tu? Per tutti gli appassionati di fumetto, arte e creatività, c'è uno dei più importanti eventi nazionali dedicati al fumetto d'autore con ospiti da tutto il mondo. Al MAR, Museo d'Arte della Città di Ravenna, dal 21 al 23 giugno torna il Coconino Fest. 3 giorni di incontri, musica, letture, live painting e la mostra Freedom con Gipi, il maestro giapponese Furuya Usamaru e altri grandi artisti. Il programma completo sul sito www.mar.ra.it. Dal 4 luglio al 31 agosto ritorna Entroterre Festival, il festival musicale diffuso in Emilia-Romagna, Toscana e Lazio, organizzato da Fondazione Entroterre. Vinicio Capossela, Alex Britti, Goran Bregovic, Daniele Silvestri, Banda Bardò e Sisco, ma anche il Francesco Cavestri Trio, Lucia Mascino con l'Orchestra della Toscana, i Virtuosi Italiani e tanta altra buona musica. Entra nel mondo di Entroterre. Per info e biglietti, entroterrefestival.it. Nei fine settimana di giugno e luglio, Piazza San Francesco si riempie di musica e spettacoli a ingresso gratuito. Venerdì, l'attivista Lea Melandri presenterà corrispondenze amorose degli anni Ottanta. Sabato e domenica, un racconto in parole, musica e danza per il 150° anniversario di Guglielmo Marconi. San Francesco estate, musica e teatro in piazza dal 21 giugno al 28 luglio. Info e prenotazioni sul sito dell'Arena del Sole o in biglietteria. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green. Up! every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green, in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Tornando in diretta, come vi ho anticipato, il mio sottomarino giallo sarà protagonista per questa parte di Voltiamo Pagina. Tra l'altro, un altro brano, musica italiana, lo troveremo in qualche brano del Buongiorno del Venerdì. Loro sono gli Stadio e portarono nell'84, chiedi chi erano i Beatles. Per chi è della mia generazione, fine anni 60, inizio anni 70, queste figure oramai mitologiche sono state motivo appunto di questa domanda e interrogativo. Chi erano mai questi Beatles? Perché noi li abbiamo forse neanche a malapena sfiorati e abbiamo come questa mancanza di non aver vissuto il mito, di non aver vissuto questo grande cambiamento nell'arte, nella musica, anche nel fashion, in tutto, nei percorsi, nell'impegno, nell'ascolto easy listening, ma di grandissima qualità. Ricordo che i Beatles arrivano dalle sonorità alla Bart Baccarat, per dire, ma allo stesso modo con grande originalità e immenso talento hanno dato una colonna sonora indispensabile per la generazione di cui vi ho parlato. In seguito io sono immediatamente successivo, per cui ne resto mutilato di queste emozioni e appunto voler saperne di più, chiedi chi erano i Beatles, è diventato all'epoca uno dei motivi in cui mi sono riconosciuto nella domanda che fa questa ragazzina carina di 15 anni di età. Ormai vi ho cantato anche la canzone degli Stadio, ma ora vi parlo del lavoro di John Kalman Stefansson, quindi un islandese. A proposito, Lorenzo, arrivano i complimenti dallo zio Sergio. Bella trasmissione e bravo Lorenzo! Sempre carino, Sergio. Grazie Sergio al 333-180-9494. Allora, intanto John Kalman Stefansson, già dal nome è facile dedurre che è un nome islandese o di zona scandinava, islandese per la precisione, dove troviamo questa copertina molto particolare nel tipico formato iperborea. Un ragazzo in questo caso è protagonista di visioni e sogni e anche di sconfitte, rivincite e allo stesso modo crescite. È un'estate in un parco di Londra quando uno scrittore islandese di passaggio sembra di vedere niente meno che Paul McCartney. Tra l'altro, tra Paul McCartney e la leggenda e il mito vi sono tante narrazioni che danno modo anche di legarci a un esoterismo particolare, dall'attraversamento della strada di Abbey Road a tante altre immagini. Vede Paul McCartney seduto sotto un albero, deve avvicinarlo, ma cosa dire a Paul McCartney quando lo trovi così a due passi? È come riordinare il groviglio di una vita che ai Beatles si è aggrappata ai momenti più difficili. La storia comincia nel 1969, tra l'altro, quando lo scrittore aveva 7 anni. È un ragazzo chiaramente ancora in età giovanissima, neanche ragazzo, è un bambino, e si trova da solo sulla Trabant del padre in compagnia del genitore, e in maniera molto immediata gli dice che la madre è già ammalata, la madre purtroppo è deceduta, lasciando al figlio i suoi dischi, i suoi libri e soprattutto un vuoto enorme. Poi arriverà una matrigna, ci sarà la vita all'interno di questo appartamento a Reykjavik, i silenzi ostinati di un padre che purtroppo devastato si concederà all'alcol, e lo scioglimento dei Beatles. L'immersione del protagonista in una parte spirituale ricercherà nella fede, nella Bibbia, un motivo di crescita e di consolazione, ma la scoperta amara di un Dio crudele, quello descritto nell'Antico Testamento. Dopodiché si percorre con tanti personaggi che daranno un mondo che apparentemente pare crollato, manca la terra sotto i piedi a questo protagonista, mentre invece il mondo si sta costruendo proprio in queste difficoltà. E il mio sottomarino giallo, come emozione e microsensazione, pare avere proprio questa sensazione. È nel momento di crollo che si inizia a ricostruire una nuova vita. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help, was so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Caro Lorenzo, tornando in diretta alle 8:41 minuti, tra poco è il momento del quiz. Tu che hai una capacità di analisi del contemporaneo che mi affascina tantissimo, con ironia e allo stesso tempo con profondità. Che rapporto hai con i Beatles? Io li adoro. Sono molto molto innamorato della loro musica, tant'è che i miei amici mi prendono ancora in giro perché una volta dissi: ah, io i Beatles li potrei ascoltare all'infinito. Partì un pezzo che non conoscevo, dissi: bello questo, chi sono? E loro: i Beatles. I Beatles. È un mito, è una figura appunto che arriva fino a portare a questo ragazzo, come vi ho detto, che mancando la terra sotto i piedi, Help Me, ho messo da colonna sonora questo brano storico dei ragazzi di Liverpool, a dare una possibilità, perché è veramente sconsolato, non ha quella capacità di trovare la chiave di comprensione, così giovane, di dire: ho di fronte il domani. Si sente veramente distrutto. Allora, perché i Beatles? Perché nel suo immaginario li porta nella sua vita con una reunion che è immaginaria, ma che secondo lui è clamorosamente concreta, no? E quindi fantasia e realtà si confondono nella seconda parte del lavoro. I Beatles si riuniscono, la povera madre defunta e anche altri che hanno lasciato nella vita del protagonista la presenza, ricompaiono, alcuni come fantasmi, alcuni invece come presenze assolutamente importanti. Inizia a leggere, conosce l'amicizia, conosce il coraggio, ascolta il silenzio, forse anche riesce a comprendere il silenzio del padre. John Kalman Stefanson, l'autore, ripercorre con grande sincerità tutti questi passaggi, è munito solo di una penna che dà la speranza quando tutte le sue speranze si spengono, e per accompagnare a questa lettura, oltre che l'ispirazione per una musica che ormai è diventata un classico, anche per dare possibilità poetica di rileggere a tutte le età determinati passaggi di vita. Come diverse pubblicazioni per Borea, il libro mi è piaciuto tantissimo. Aggiungo come modalità narrativa un aspetto poetico. Ogni pagina è una poesia. Magari ne leggo un brano anche dall'incipit del mio Sottomarino Giallo, oltre che metterlo in palio con grande piacere per voi, ascoltatrici amici e ascoltatori. Allora, primo del brano, colonna sonora beatlesiana, ovviamente riportiamo l'attenzione all'Islanda con un'altra formazione. È una formazione di ambient elettronica post rock, è una formazione che ha avuto un grandissimo successo, è una formazione islandese di cui tanto si è parlato. Li trovo molto talentuosi, anche se loro stessi hanno affermato: noi andiamo così piano a suonare perché non siamo dei grandi musicisti, ma anche loro sono poeti in musica. Hanno un aspetto visivo e visionario quanto mai clamoroso e particolare. La formazione, come nome, con parole islandese e con testi che richiamano un gramlo sempre islandese, come vi ho detto, hanno avuto un grande successo tra post rock, ambient ed elettronica, anche a livello di grandi tra virgolette vendite, diciamo, pubblicazione dei loro lavori. Il nome è composto da due parole, e se me lo scrivete al 333-180-9494 per voi, Jan Kalman Stefansson, il mio sottomarino giallo. A tra poco. Sono i Roik Shop, in quanto sono norvegesi, non sono islandesi. Bella trasmissione, complimenti Lorenzo, super, da Marianna. È talmente emozionato che ha sorriso e non ha detto grazie, ve lo dico io per lui. Ringraziamo Marianna. Grazie mille Marianna. Non spaventatevi dalle mie parole, ambient, elettronica, post rock, bla bla bla, perché hanno avuto un grandissimo successo, hanno fatto colonne sonore, hanno fatto un brano in una colonna sonora, tra l'altro, di un film che ha avuto un grande successo, adesso non ne ricordo il titolo perché sono un maledetto smemorato. Però questa formazione islandese, con queste sonorità visionarie, particolari, ma anche di grande gusto, il loro nome... Due parole, semplicissime. Semplicissime, sono due parole, perché, come ho detto, si esprimono in questo gramlo islandese. Comunque è per avere il mio sottomarino giallo, di Jan Kalman Stefansson, il nome di questa formazione islandese. Il loro primo disco è stato un grandissimo successo, con questa copertina completamente blu scura, con un particolare infante ritratto sopra. Beh, insomma, avrete tempo di rispondere. Lascio aperta la comunicazione al 333-180-9494 per ritirare i premi. Per quanto riguarda Libreria Ubik, che ringrazio tantissimo, inviare Quaternario 27 a Bologna. Dai, scrivete di questo gruppo islandese, tra l'altro grandi talenti. Vi lascio aperto appunto il microfono e arriva Luigi con risposta esatta. Questo è un tiro da tre all'ultimo secondo, Lorenzo. Sì, sì, nel clutch time. Esatto, Mr. Clutch, Luigi, risposta esatta. Sigur Rós. Lorenzo, grazie, ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo. Beh, se vuoi venire, a noi fa piacere. Guarda, vi prendo sostenere. La responsabilità, non solo a sostenere, anche a fare conversazione con noi. Domani ricco appuntamento in mostra, a breve la conferenza stampa dell'esposizione che sarà protagonista al Mambo. Io vi ringrazio per aver giocato con il Breakfast Club e come posso dire che oltretutto avremo... un tiro da quattro, scrive da buon virtussino, lo vuol sempre precisare. Quindi il premio è revocato. No, sto scherzando. No, vi dico che c'è l'Edipo Enciclopedico e poi abbiamo il grande rock di Nevio dalle 10.30 alle 12.30. Però non dimenticate, alle 9.30 fino alle 10.30 rassegna stampa curata e condotto da Alfredo Pasquali. Grazie Lorenzo, alla prossima. Grazie a tutti, ciao. Ciao, ciao. I'll pretend that I'm missing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll ride home. Incontri pomeridiani senza titolo, per ora. Conduce in studio Alberto Manzi. Regia di Nini Perno. Eccoci. Buongiorno. Buongiorno. Oggi parliamo di Taiwan, che è un argomento caldo, perché sappiamo che insomma le tensioni, soprattutto con la Cina, da quelle parti sono altissime, vivissime. Ma ne parliamo perché c'è invece un episodio che ha fatto un po' il giro del mondo e anche noi l'abbiamo voluto raccogliere con Corrado Voltaggio perché è veramente simpatico, cioè, bisognerebbe vedere anche un po' le immagini. Fondamentalmente c'è stato nel Parlamento di Taiwan c'è stato un disegno di legge, è stato presentato per la riforma del potere legislativo che intendeva conferire maggiori poteri di controllo al Parlamento sul governo, il contrario di quello che vuole fare qui il governo Meloni, cioè più potere al governo e sempre meno al Parlamento già svuotato. Però a Taiwan il dibattito è aspro sempre e quindi sono scoppiati violenti disordini con alcuni deputati che si sono spintonati, sono saliti sugli scranni, quindi in un clima da stadio, da tumulto. Ma l'episodio più eclatante, che ha avuto ovviamente diventato virale sui social, ha visto un deputato dell'opposizione impossessarsi di alcuni faldoni contenenti le schede appunto elettorali e per darsi alla fuga, è scappato con i faldoni e si vede appunto lui che come se non fosse nel Parlamento del proprio paese per impedire l'approvazione di questa discussa proposta di legge, quindi in fuga, c'è un uomo in fuga con i faldoni, capito? È un po' ingenuo perché non è che poi se rubi faldoni, no, immagino che ci siano dei file anche digitali, quindi sì. Però, sai, quando c'è il dibattito era così veemente che, insomma, questo deputato ha pensato adesso ci penso io. Prendo i faldoni e poi vedete cosa provano, capito? Ecco. Quindi non è che lo vogliamo proporre come modello, no, per il dibattito attuale in Italia, che è appunto ribaltato a specchio. Però, insomma, teniamo conto che quando la discussione si accende, poi no, tutti, insomma, tanti mezzi che uno nemmeno immagina, insomma, diventano possibili, diventano leciti. L'uomo è stato successivamente il deputato, perché questo è un parlamentare di Taiwan, capito? È stato avvistato, capito, a chilometri di distanza, cioè è scappato proprio, capito? Si è fatto 2 chilometri di fuga a piedi. prima che si rendesse conto, cioè nel senso a un certo punto è come Forrest Gump, si è fermato e ha detto ma che sto facendo, cioè sto fuggendo coi faldoni, ma cioè no. Sono impazzito, ecco. E quindi capito, poi ha fatto marcia indietro, però no, insomma, se ne è reso conto, se ne è reso conto, però insomma quei chilometri, un po' di chilometri se ne è fatti, ha fatto guardare di portarsi dietro i faldoni, sì. Fa anche bene alla salute, no no, ma fa ridere perché se vedete il video che c'è ancora, si vede che mentre tutti si accapigliano, no? Tutti discutono l'idea, lui 4-4 capito, passa in mezzo ai banchi, capito, con sti faldoni, sembra un portaborse, in realtà no, capito, è proprio un deputato. Vabbè, questa è la democrazia, signori. Sì. Torniamo domani che parleremo dell'elettrodomestico più amato nel mondo. Nel mondo, sì, sì, sì. Parole grosse. Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche. Erano qui prima di noi. Preparatevi ad un incontro inaspettato. Dinosauri in carne e ossa, un viaggio nel passato per scoprire i giganti della preistoria. Il tirannosauro e il diplodoco, ma anche il dodo, la tigre dai denti a sciabola e tanti altri ancora, tutti in dimensioni reali, per un allestimento spettacolare e scientifico. Dinosauri in carne e ossa, il parco a tema preistorico, da oggi aperto a San Lazzaro al Parco della Resistenza. Tutte le informazioni su dinosauricarneossa.it. Francesca, ti vedo preoccupata. Già, hai ragione. Devo prendere la patente, ma so già che non sarà facile. Fai come me, vai all'autoscuola Tugnoli. Sarai seguito in tutto il percorso da istruttori seri e attenti. E in men che non si dica, avrai la patente. Autoscuola Tugnoli. Tutti i tipi di patenti, anche speciali, recupero punti e rinnovi. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104. Maggiori info su autoscuolatugnoli.com. Torna Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè, che quest'anno racconta le migrazioni e l'inclusione attraverso prospettive e linguaggi inediti. Fumetto, teatro, cinema, cucina e tanto altro da scoprire nei 5 eventi a Bologna. Scopri il programma su arcacoop.com. Vez, stasera? Pappa buone birrettine? Sì, ma dove? Vez, andiamo al Public. Ma dov'è? A Castenaso, Vez. Beh, scherzi? È un quarto d'ora, dai. Beh, ma scherzi? Pollegi. La cucina e il bere sono pazzeschi. Ha un parcheggio infinito, tanto spazio in giardino, dentro puoi vedere i match, opzioni senza glutine e vegane. Hanno anche un bel cocktail bar, ti dirò. Beh, scherzi? Beh, ma scherzi tu? Vuoi che ti facciano anche il piano alla macchina? Public, more than a pub, in via Fiesso a Castenaso. Renault rilancia. Renault raddoppia gli incentivi statali. Clio tua da 98 euro al mese per 36 rate e anticipo zero. In caso di rottamazione fino a euro 2 e incentivi statali. Rata finale 12.383 euro. TAN 390 TAG 533. Offerta valida fino a giugno, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scopri la benzina diesel GPL e i tech full hybrid. Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante. We'll be right back. Liberi Dentro, Eduradio e TV, un ponte tra carcere e città. Mercoledì 19 giugno, bentrovate e bentrovati a Liberi Dentro, Eduradio e TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni vi fa compagnia. Una mezz'ora d'aria che trascorriamo insieme per parlare di tante cose, per far parlare di tante situazioni che ci stanno intorno e che magari non possiamo conoscere approfonditamente. Ecco, proprio per questo io passo la parola ad Alessandro, che continuerà a raccontarci, attraverso le parole dei protagonisti, di un festival, il Festival della